Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Parliamo di un nuovo fertilizzante organico, Piperfert, che nasce dall'unione di due scarti di processo. È il risultato di un lavoro piuttosto lungo di messa a punto voluto da FIPER, la Federazione Italiana Produttori di Energie Rinnovabili, che raccoglie soprattutto il mondo delle bioenergie, in particolare il mondo dei produttori di biogas e il mondo delle centrali elettriche e termiche a biomassa vergine. Per le quali questo nuovo fertilizzante rappresenta l'opportunità di risolvere un problema. Quale? Beh, ce lo facciamo spiegare subito da Walter Righini, che è presidente di FIPER. Buonasera, buonasera Righini. Buonasera. Niente, noi avevamo il problema, noi abbiamo impianti di teleriscaldamento a biomassa, abbiamo impianti di biogas e avevamo il problema dello smaltimento delle ceneri e del digestato solido, che diventava un problema abbastanza importante. Alcuni anni fa abbiamo avuto l'idea di utilizzare sia la cenere proveniente da questa biomassa che veniva bruciata negli impianti di teleriscaldamento, sia il digestato solido, di mischiarli tra di loro per ottenere un fertilizzante, con il doppio vantaggio che il digestato è un ottimo concime, mentre le ceneri sono un ottimo emendante, soprattutto per la correzione del pH dei terreni. Ecco, tra l'altro parliamo sia del digestato sia delle ceneri, di due materie che storicamente sono sempre state usate, no, in campo agricolo. Le ceneri, per esempio, sono ricche di potassio, che è uno dei macronutrienti più importanti per le piante, sono sempre state utilizzate, no, in qualche modo. Certo, come... Certo. Però voi fate, le usate in modo un po' più raffinato, per esempio le depurate in qualche modo, no? Beh, certo, allora le ceneri, con tutti i filtri, gli impianti di depurazione che abbiamo sulle missioni, otteniamo due tipi di ceneri: le ceneri pesanti, che sono quelle che usiamo come emendante, che sono, diciamo, le più pulite, poi ci sono le ceneri leggere, che sono quelle che invece contengono un po' più di metalli che le piante, quando crescono, assorbono nella loro attività. E voi eliminate questa parte di ceneri leggere? Questa parte con tutti questi metalli pesanti. Il digestato di fatto non è nient'altro che l'etame, che attraverso il processo per la produzione del biogas, al quale viene tolto tutto l'odore che noi conosciamo del letame, per cui abbiamo un ottimo concime organico che oltretutto non puzza più. Mischiando i due prodotti riusciamo a avere questo concime organico che si presenta, ha dei benefici di entrambi le componenti. E che si presenta sotto forma di pellet, giusto? Allora, l'altro problema che avevamo era come movimentare, come poter mettere in commercio questo prodotto, perché chiaramente la cenere molto secca e molto polverosa, il digestato invece un prodotto molto più umido, per cui abbiamo pensato a questo concime trasformarlo, farlo sotto forma di pellet, in modo che resta molto più semplice, molto più facile l'utilizzo anche per le casalinghe che vogliono certo. I fiori, oppure anche come concime, con un altro vantaggio oltretutto, che spargendo questo pellet il suo scioglimento e il rilascio delle sostanze nutrienti diventa molto più lungo nel tempo e apporta maggior beneficio al terreno. C'è chi peraltro, appunto, vi ha seguito, vi ha dato una consulenza di carattere scientifico e anche sperimentato questo concime, che è stato messo alla prova in campo, no? Beh, chiaro, noi l'idea era iniziale era questa, però chiaramente non è detto che tutte le idee sono buone. Abbiamo collaborato molto bene con l'Università di Agraria di Milano, col professor Adani in testa, abbiamo fatto delle sperimentazioni in campo per ben 2 anni, in vasche lisimetriche, facendo piantumazioni di sorgo, piantumazioni di mais, e vedendo la differenza di produzione fra i terreni concimati normalmente, certo, non trattati, oppure tra i terreni trattati con questo nuovo concime organico, e i risultati sono stati estremamente positivi, per cui abbiamo ritenuto opportuno proseguire in questa attività e arrivare alla fase quasi conclusiva dell'operazione. Ecco, perché per chiudere a questo punto, che cosa resta? Resta da arrivare sul mercato, no? Beh, per chiudere, in Italia uno dei nostri più grossi difetti in Italia, burocrazia. Troppo la burocrazia. Sì. Noi parliamo di tante cose, ma ecco, tanto per capirsi, non abbiamo tempo qui di approfondire, anche solo il trasporto delle ceneri, che è un rifiuto, è problematico, no? Esatto. Per cui niente, noi abbiamo già ottenuto da Bruxelles e dal Ministero dell'Agricoltura la licenza, il riconoscimento di questo concime. L'ultimo problema che abbiamo, dobbiamo aspettare, stiamo risolvendo con il Ministero dell'Ambiente, adesso che è uscito il decreto sui sottoprodotti, che sia le ceneri che il digestato solido siano riconosciuti sottoprodotti, per cui in entrata anziché abbiamo rifiuti, non più un rifiuto, corretto, ma un sottoprodotto, e in uscita abbiamo un prodotto finito destinato all'agricoltura. Va bene, grazie Walter, grazie. Righini, in bocca al lupo. Tanti saluti a voi e agli ascoltatori, grazie. È tutto anche per questa sera, appuntamento domani, buona serata.